la stragrande maggioranza degli immigrati presenti in Italia, stranieri, quindi non appartenenti all'Unione Europea, hanno il diritto dovere di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Ed essendo un diritto dovere, è qualcosa di obbligatorio e che devono fare tutti. Non pagano all'atto dell'iscrizione, ma pagano come tutti noi italiani con la fiscalità, quindi con la fiscalità generale e anche con forme indirette di fiscalità. Quindi è tutto, loro pagano come paghiamo noi proporzionalmente al reddito che si hanno. Quindi già oggi la stragrande maggioranza degli immigrati deve essere iscritta al Servizio Sanitario Nazionale e comunque non è un'iscrizione gratuita, ma è un'iscrizione, diciamo, a pagamento come per tutti noi. Ecco, non c'è la tassa della salute come una volta, ma si paga con la fiscalità, quindi proporzionale al reddito. C'è una piccola parte di immigrati che non possono essere iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario, ma devono avere una copertura sanitaria, che può essere un'assicurazione privata o, in alternativa all'assicurazione privata, una iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale. Questi sono ad esempio gli studenti, sono le persone collocate alla pari, sono coloro che hanno dei permessi di soggiorno per motivi religiosi. Quindi sono una parte piccola, 2-3% dell'intera popolazione degli immigrati, che, ripeto, possono, volendo, iscriversi volontariamente. In questo caso, all'atto dell'iscrizione si paga, e questa norma di cui si sta parlando adesso va a interessare questa parte di popolazione, modificando le tariffe. Fino ad oggi c'è una certa tariffa, che peraltro è residuale di una tariffa, diciamo, imposta nel 1986, quindi è molto molto vecchia, quindi c'è una sorta di aggiornamento di quella tariffa, e però riguarda esclusivamente, diciamo, questo tipo di popolazione. Questa tariffa, se non sbaglio, insomma, almeno dalle cifre che abbiamo letto, attualmente sui 300 euro, giusto? Per chi ha l'età mia, quindi, che si ricorda un tempo, erano le famose 750.000 lire che si doveva pagare. Al suo tempo, se un immigrato voleva iscriversi al Servizio Sanitario nell'ambito di questa iscrizione volontaria, quindi di queste categorie che ho detto prima, quindi è stata aggiornata a 386 euro, mi sembra, però per gli studenti e per i collocati alla pari è ridotta, cioè a tariffe più basse, dai 200 ai 290 euro. È un'iscrizione che parte dal momento in cui uno la fa e vale fino al 31 dicembre dell'anno in corso, quindi questa è anche una struttura, ecco, se si dovesse correggere qualcosa, questo è l'ambito da correggere, cioè non vale un anno, ma vale dal momento in cui la fai fino al 31 dicembre, quindi se la fai oggi, per così dire, ti vale fino al 31 dicembre del 2023, e la tariffa è la stessa, come se la facessi a gennaio paghi 386 euro, se la fai oggi paghi lo stesso 386 euro e ti vale fino al 31 dicembre lo stesso. Quindi c'ha già delle criticità la norma vecchia, questa nuova chiaramente aumenta tantissimo l'importo, anche perché, da dire un'altra cosa, l'importo l'attuale è proporzionale al reddito percepito in Italia all'estero nell'anno precedente, quindi la tariffa di 386 euro è per chi ha un reddito chiaramente basso, tipicamente per gli studenti, però gli studenti hanno anche una quota agevolata. Questa norma, almeno da come ho letto nelle anticipazioni, toglierebbe questa situazione e sarebbe una tariffa uguale per tutti, indipendentemente dal reddito che hai percepito nell'anno precedente, e questa è un'altra problematica che si viene a creare. Ma questi 2.000 euro come possono essere calcolati con la rivalutazione dal 1986 a oggi, con la spesa media che il servizio sanitario sostiene? Secondo lei, ma da cosa derivano? Non so come l'hanno definito. Qualcuno dice che è legato alla spesa media che si sostiene per gli immigrati, però anche questo è veramente aleatorio come impostazione. Qualcuno dice che è la rivalutazione dall'86 ad oggi. Non ho idea quale sia stato il modo per ricalcolarlo. Secondo me c'è da fare qualche ragionamento, proprio perché pensare a un'aliquota unica per una popolazione così variegata, con motivazioni diverse, con situazioni diverse, perché qui c'è lo studente che viene dal paese povero e che magari ha ottenuto una borsa per poter studiare qui in Italia, c'è però anche il diplomatico che dà uno stipendio da 20.000 euro al mese, insomma, e quindi mentre attualmente attualmente la norma che c'è è proporzionale al reddito fino ad arrivare a un tetto che mi sembra di 5.000 e passa, cioè in rapporto al proprio reddito al massimo uno deve, può spendere 5.000 euro e questi sono ovviamente le persone che magari lavorano, sono impegnate in determinate attività che non prevedono l'iscrizione obbligatoria, tipicamente diplomatici nelle organizzazioni internazionali e così via. Quindi ci sono vari elementi adesso da leggere come è stata strutturata la norma, vari elementi che sono abbastanza critici, anche se noi ci aspettavamo un adeguamento delle tariffe perché sono passati tanti anni, però ecco, è da capire bene quali sono stati i dispositivi messi in campo.